anni sopra le genti, tutte volte passano indifferenti, guardano occhi nel vuoto, scrutano silenzi come in un gioco, eppure malizie capricciose volano leggere nell'aria come primavere. Ma tutto qua rimane, sulla sostanza è reale, un inverno freddo da cui non tornare, passano anni e tutto ritorna, quella voglia, quella volta che avevo pure una voglia. Marta, te che non stai più con me, voglie e anni passano, differentemente passano, e tutto quanto poi ritorna. Ah, può scoprire la vergogna, tutti quei lamenti lasciati nel vuoto, siamo solo sempre, solo un gioco, eppure non c'è niente di reale in tutto questo immorale, perverso, mortificare di tutte le emozioni, sensazioni che si spengono come illusioni. Eppure guarda, torna la notte, la gente esce, feste di amore clandestini vanno avanti tutti i mattini, tutte le sere fino all'alba tramonto, feste che durano anche un giorno, e tutto qui soggiace la logica del capace, guerre profonde nei silenzi più acuti, tutti quanti si fanno saluti. Rimango qui a pensarti, l'amore in fondo degli inganni del cuore, a volte scruto in mezzo alla gente, vorrei te più vicino, meno indifferente, eppure sensazioni tornano a scrutare dentro agli occhi tuoi, quegli orizzonti miei che volano lontano verso un mistero, prendimi per mano, andiamo, corriamo, il mondo è qua o non c'è mai stato. Non c'è l'inganno, non c'è la pietà in questo momento. Forse correrai con me le derive che del cuore fanno ogni inganno. Perduto, taciuto, voluto, eppure tutto il mistero torna. Nulla c'è vergogna, eppure vorrei solo amarti. Dimmi di sbagliato, eppure voglio sognarti nuova, capricciosa, golosa. Di tutte le tue mani tentacoli fanno uscire matti tutte quelle genti che ti vogliono per loro, ma non sanno che sei un'amica dura, paura, tortura, tutte quelle volte ad accarezzarti i capelli, sfumatura dei miei errori, sfumatura dei miei errori.